Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Tutta la nostra vita si snoda attraverso migliaia di rapporti umani e anche rapporti lavorativi. Non sempre le persone positive in un campo lo sono anche nell'altro. Si può essere capaci di dare tutto nell'ambito lavorativo e poi magari tornare a casa e non essere capaci di dare nulla agli altri. Si può amare molto e non essere in grado di dimostrarlo. Insomma, è tutto così difficile e indefinibile nell'ambito di rapporti umani, che sono sempre complessi, articolati, soprattutto quelli legati all'infanzia, che possono generare delle reazioni che magari ci influenzeranno per tutta la vita. Vi sto dicendo questo perché noi oggi vogliamo raccontare una storia fatta di rapporti umani terribilmente complessi, violenti, controversi. Vi raccontiamo una storia di grandi successi, ma anche di grande sofferenza, perché la vita di un uomo è fatta di tutto questo e la vita del nostro uomo rappresenta in pieno quello che sto per dire. Ci sono stati colpi d'ala immensi che sono sotto gli occhi di tutti, ma anche delle cadute che sono altrettanto evidenti, che hanno fatto di questo personaggio uno dei più controversi della nostra epoca. Ma noi ci addentriamo nella difficile vita di un uomo che non è riuscito a mettere barriere tra la sua vita privata e la sua vita professionale, una vita che ha vissuto a lungo nell'ambito della sua straordinaria famiglia, è stato il cardine di una famiglia. Ma noi oggi non parleremo di lui, o meglio, parleremo di lui raccontando la storia di suo padre, il timoniere di questa famiglia, ma forse anche l'orco, perché oggi il nostro protagonista è Joseph Jackson, il padre di Michael Jackson e dei tanti fratelli, manager dei mitici Jackson 5, ma uomo controverso, discusso, violento, e sul quale c'è molto da raccontare. All'inizio non volevo una famiglia molto numerosa, ma sono quel tipo di uomo che quando inizia ad avere figli poi si comporta in un certo modo. Ci sono quelli che fanno i figli e poi non ci sono. Io sono stato con ciascuno dei miei figli. A quel tempo gli uomini avevano i figli e poi se ne lavavano le mani. Io non avrei mai potuto fare così. Se li hai, lavori per loro, li cresci nel modo giusto e questo è tutto. Io volevo fare così, stare con la famiglia ed essere un padre per quella famiglia. Detta così sembra una bella storia, sembra l'inizio di una bella storia, sono i migliori propositi quelli che sta dichiarando Joseph Jackson, Joe Jackson, però in realtà la sua presenza costante, che forse è dettata dalla volontà di fare emergere i suoi figli, è anche motivata da un fortissimo interesse economico ed è una presenza che purtroppo si è rivelata nefasta sotto molti aspetti. Joseph Walker Jackson nasce il 26 luglio 1928 a Fountain Hill in Arkansas, è il primo tra cinque fratelli e sorelle, con un padre severo, manesco, e sappiamo che le situazioni di violenza finiscono per generare altra violenza, quindi Joe cresce pensando che i figli vadano educati così, vadano picchiati quando serve. Lui si descrive come un bambino solitario, con pochi amici. Quando lui ha 12 anni i suoi si separano, lui va a vivere prima col padre in California, ma dopo qualche anno, quando ha 18 anni, raggiunge la madre e i fratelli a East Chicago in Indiana, dove spera di riuscire a realizzare il suo sogno, diventare un pugile. E questa va segnata perché molti padri di grandi artisti in realtà hanno alle spalle, come dire, un fallimento professionale grazie al quale o per colpa del quale riverseranno poi sul figlio delle frustrazioni e aspettative anche eccessive. Intanto, mentre si prepara la carriera da professionista, incontra Catherine Scrooge, che ha 17 anni. I due si innamorano, lei rimane incinta, i due si sposano, vanno a vivere a Gary nell'Indiana e 4 mesi dopo, nel maggio del 50, nasce la loro prima figlia, Rebby. E così Joe abbandona quel sogno di diventare pugile, deve mantenere la famiglia che cresce rapidamente perché in 16 anni i Jackson hanno 10 figli. Dopo Rebby arrivano Jackie, Tito, Jermaine, Latoya, Marlon, gemello con Brandon che però muore appena nato, e poi arriva Michael, Randy e infine Janet. E non è facile tirare su tutti quei figli. Absolutely. I think it was the fifth kid. I knew I needed another job, so... Mi sembra che sia stato dopo il quinto figlio, avevo bisogno di un altro lavoro, così sono entrato nel commercio, quindi avevo 2 lavori. Ho fatto 2 lavori per quasi 10 anni. C'erano un sacco di problemi a quel tempo nella zona dove abitavamo, tanta delinquenza, tanta droga. Ecco perché io tenevo sempre i miei figli in casa. Lo so che Michael si è sempre lamentato di non aver avuto un'infanzia, ma non è vero. Ha avuto una bellissima infanzia. Stava sempre insieme ai suoi fratelli e sorelle. Giocava sempre con loro. Non volevo che uscisse a giocare con quei ragazzini che erano sempre nei guai. La maggior parte di loro adesso o sono in prigione o sono morti. Beh, da un certo punto di vista, certo, un padre che ha 9 figli da mantenere e vive in un quartiere difficile sta facendo un ragionamento che sembra più che corretto. Però i problemi si creano tra Jackson e i suoi figli e non sono il semplice divieto di uscire a giocare in strada, perché ci sono motivazioni ben più profonde e più gravi, motivazioni che emergono in maniera evidente quando Joe e la moglie si accorgono di avere in casa dei veri e propri fenomeni della musica. Il falco e il gabbiano. Joe Jackson sta lavorando sodo per mantenere la sua numerosa famiglia, ma trova il tempo per la sua grande passione che è la musica. Suona la chitarra, è bravo, all'inizio degli anni 50 fa parte addirittura di un gruppo blues, The Falcons. Poi il gruppo si scioglie, a Joe rimane quel grande amore per la musica, per la chitarra, che tiene gelosamente conservato in un armadio, ed è proprio da questa chitarra che nascerà tutto, lo ha raccontato Michael Jackson nella sua autobiografia Moonwalk. Siamo nel 60 e i 3 fratelli Jackson più grandi, Jackie, Tito e Jermaine, grandi per modo di dire, hanno 9, 7 e 6 anni, cominciano a suonare la chitarra del padre di nascosto quando lui è al lavoro. Poi però si rompe una corda, i bambini sono preoccupati, non sanno che è normale che le corde della chitarra dopo un po' si rompano, sono convinti di aver fatto un danno terribile, è evidente, sono terrorizzati dal padre che è anche severo e manesco. Rimettono a posto la chitarra nell'armadio sperando che Joe non se ne accorga. Invece, ovviamente, lui lo scopre, però invece di arrabbiarsi, intuendo che sono stati i bambini, chiede loro di mostrargli cosa sono capaci di fare, e quello che vede lo sconvolge perché i suoi ragazzi sono dei veri e propri portenti. A quel punto lui inizia a farli provare con regolarità, a farli studiare, compra altri strumenti, forma un piccolo gruppo di famiglia che suona nelle feste, nei matrimoni, e chiunque li senta si rende conto immediatamente che i Jackson Brothers, questo è il loro nome iniziale, sono molto di più di un gruppo da far suonare nei matrimoni. Così nel 63 iniziano ad arrivare i primi ingaggi nei locali notturni. Ai 3 fratelli si aggiunge anche Marlon, che è del 57, che ha solo 6 anni. Tutto però assumerà una portata diversa quando arriva anche Michael. Si vedeva la loro bravura e stavano imparando molto bene, ma quando arrivò Michael vidi il vero talento, perché faceva delle cose, cantava, ballava, e poi la maggior parte degli artisti va sul palco e quando hanno finito la loro performance perdono tutta la magia. Invece Michael continuava ad averla. Doveva sempre provare un po', poi certe volte era triste quando non lo vedeva nessuno, ma era molto bravo, anche come ballava. Faceva la spaccata alla James Brown. Ho visto la bravura in tutti i miei figli, ma Michael era il leader. Jermaine era bravo anche lui, difficile dire chi fosse il più bravo. Forse Jermaine era leggermente più bravo come cantante, ma non sapeva ballare né suonare la chitarra come Michael. He couldn't dance and play the guitar E insomma, Joe Jackson si trova in casa cinque artisti straordinari, tutti giovanissimi, alcuni piccoli veramente, che però hanno un repertorio allegro, gioioso, uniscono il funk nero alla musica bianca, quello che negli anni 70 poi porterà alla disco music. Il gruppo si forma ufficialmente nel 68, il nome è Jackson 5 perché sono in 5, Michael è il più piccolo, 10 anni, Jackie il più grande che ne ha 17. Tutti e cinque cantano, tutti e cinque suonano le percussioni, Tito e German suonano anche la chitarra, ma il leader naturale del gruppo è proprio il più piccolo, questo portento che è Michael Jackson. Joe Jackson è il padre, il loro manager, il loro tutore legale, firma il primo contratto, l'etichetta discografica è la Stealthtown Record, il primo singolo è Big Boy. Big Boy ha un discreto successo, 10.000 copie, e lui capisce che i ragazzi possono veramente sfondare nel mondo dello spettacolo, hanno solo bisogno di una buona etichetta discografica. Così, quando Bobby Taylor, che è il frontman del gruppo Bobby Taylor and the Vancouvers, che peraltro è un ammiratore dei cinque piccoli Jackson, dice a Joe che conosce Berry Gordy, il proprietario della mitica Motown di Detroit, la casa discografica dalla quale è partita tutta la rivoluzione della musica nera. Bene, Joe non si lascia scappare l'occasione, organizza un provino. Berry Gordy rimane impressionato dalla bravura di quei ragazzini, soprattutto rimane impressionato da Michael e mette subito la band sotto contratto. Siamo nel marzo del 69. E siccome la sua stella di punta, la cantante di maggior successo in quel momento nella Motown, è Diana Ross, Gordy organizza una sapiente manovra pubblicitaria, lancia i Jackson 5 come una scoperta della grande Diana Ross. E il loro primo album si intitola Diana Ross Presents the Jackson 5. Il primo singolo estratto è I Want You Back, che raggiunge immediatamente il primo posto nella classifica statunitense. I Want You Back esce il 7 ottobre del 1969, a dicembre arriverà l'album, quello presentato da Diana Ross, che rimarrà al primo posto della classifica fino a fine del gennaio successivo. Stiamo parlando di una canzone storica che ha venduto oltre 6 milioni di copie nel mondo, che trasformerà i Jackson 5 in star internazionali. Il loro successo è il frutto di un sapiente mix di talento, tantissimo talento, ma anche di esercizio e di una guida intransigente, quella del padre, padrone, manager Joe Jackson. Decide tutto lui, decide quando i figli devono provare, quando devono fare i compiti, quando possono dormire, cosa devono mangiare, quando devono mangiare. La loro giornata diventa quella di bravi soldatini che obbediscono al comandante. La disciplina che regola le giornate è ferrea, non ammette eccezioni, non è contemplato discutere un ordine paterno, ma questo non basta, non è contemplato l'errore. Se qualcuno sbaglia sono botte. Joe ha lasciato il lavoro, non può rischiare un fallimento, ci sono in gioco tantissimi soldi, un futuro da star per i suoi figli e una vita agiata per tutti, non si può sbagliare. I miei figli sono stati cresciuti nel rispetto per la gente, non si sono mai drogati, non sono mai finiti in carcere, non hanno mai fatto parte di qualche gang, sono stati cresciuti per essere dei professionisti e delle persone per bene. Sono contento di essere stato severo, perché guardate cosa è venuto fuori. Ho dei figli che tutti amano, in tutto il mondo, e loro hanno sempre trattato tutti bene. Beh, è certo, a giudicare da quello che ha ottenuto sul fronte professionale, non possiamo dargli torto, ma i ricordi dei suoi figli, in particolare quelli di Michael, che in diverse occasioni ha parlato della sua infanzia terribile, sono racconti che fanno tremare, che gettano una luce molto differente su quest'uomo, che è stato sicuramente un bravissimo manager, un illuminato, che è stato abile a valorizzare le grandi doti dei suoi molti figli, però come padre è stata una figura controversa e terrorizzante. Il falco e il gabbiano. Il nostro protagonista di oggi è Joe Jackson, non il pallido e altissimo cantante britannico nato dal punk del quale prima o poi parleremo. Oggi parliamo di Joseph Jackson, padre di Michael Jackson e dei suoi tanti e famosi fratelli e sorelle. Nel 2002 Jackson è stato proclamato dalla Rock and Roll Hall of Fame il miglior manager di spettacolo di tutti i tempi. E in effetti gli artisti che ha portato al successo sono tra i più grandi del mondo, in assoluto. Sono i suoi figli, dai Jackson 5 a Janet Jackson, ma ovviamente soprattutto a Michael Jackson. Artisti che non hanno bisogno di presentazioni, che hanno venduto milioni e milioni di dischi, soprattutto sempre lui, Michael. Eppure se come manager lui probabilmente non ha uguali nella storia dello spettacolo, non si può dire altrettanto bene di lui se parliamo di lui come padre, perché è stato un padre padrone che a detta dei suoi stessi figli è stato terribilmente esigente, violento, li ha terrorizzati per anni, i suoi figli sono cresciuti pieni di paure, di traumi, i racconti della loro infanzia, resi di dominio pubblico quando loro erano grandi e lui ormai era anziano, parlano di un'infanzia rubata, violata, di soprusi, di botte continui, tutte cose impossibili da dimenticare, difficili da perdonare, tutte cose che hanno segnato per sempre la vita di questi grandi artisti. E nel nostro racconto siamo arrivati al 1970, quando il gruppo formato dai cinque fratelli Jackson, Jackie, Tito, Jermaine, Marlon e Michael, i Jackson 5, diventano le star di punta della Motown, la casa discografica di Detroit di Berry Gordy. Dopo il primo singolo di esordio, I Want You Back, che arriva al primo posto in classifica, Joe Jackson, padre dei cinque ragazzi ma ovviamente anche manager del gruppo, si trova al timone di una straordinaria band di veri fenomeni, ma anche di ragazzini. Il più grande Jackie ha 19 anni, poi c'è Tito che ne ha 17, Jermaine 16, Marlon 13 e il più piccolo Michael, che a questo punto della nostra storia ne ha 12. Non deve essere facile gestire quelli che sono praticamente dei bambini. La pressione della casa discografica impone ritmi di lavoro pazzeschi e Joe non conosce altro sistema che la sua disciplina ferrea, fatta da botte, da cinghiate. Quando anni dopo e a seguito delle dichiarazioni dei figli gli è stata contestata questa gestione violenta, Joe ha risposto così: li sculacciavo, ma una sculacciata significa farti capire che stai facendo qualcosa di sbagliato. Picchiare è un'altra cosa, viene dai giorni della schiavitù, quando gli schiavi venivano picchiati perché tentavano la fuga verso la libertà. Li picchiavano e li torturavano. Li picchiavano con tutto quello che gli capitava a tiro e gli procuravano delle ferite. C'è differenza tra una sculacciata e picchiare come picchiavano gli schiavi i loro padroni. Qui lui, insomma, per confondere le acque tira in ballo la schiavitù e storie di secoli prima. Sì, c'è differenza tra picchiare, torturare e sculacciare, ma di ben altro che sculacciate si parla con i fratelli Jackson. Lui intanto deve gestire un successo enorme, perché nel 70 i Jackson 5 realizzano qualcosa di straordinario, altre tre canzoni che raggiungono la prima posizione nelle classifiche americane, altri 10 milioni di copie ad aumentare il fatturato. Tant'è vero che i Jackson 5 entrano nel Guinness dei primati nella storia della musica come il primo gruppo in assoluto a aver portato i loro primi quattro singoli in cima alle classifiche. Le canzoni sono ABC, che scavalca Let It Be dei Beatles, The Love You Save e I'll Be There. È evidente che con 10 milioni di dischi venduti in meno di un anno e un futuro radioso che si apre davanti a questi artisti, la componente economica diventa un fattore scatenante di dinamiche anche discutibili. Joe Jackson può avere tutte le sacrosante ragioni di padre e di manager, ma quello che racconteranno i suoi figli è raccapricciante. Ascoltate Janet Jackson, la figlia più piccola, che peraltro intraprenderà anche lei una brillantissima carriera da solista, naturalmente sempre con il padre come manager. I think my father means well. Credo che mio padre fosse in buona fede e non volesse che il meglio per i suoi figli. Penso che il modo in cui ha gestito certe cose non sia stato dei migliori, ma aveva un lavoro da fare e il suo comportamento dipendeva probabilmente da come è stato cresciuto a sua volta, facendo quello che pensava fosse il meglio, senza conoscere un modo migliore. Quando mio fratello Randy e io siamo arrivati, credo che i miei genitori fossero stanchi. Avevano 9 bambini da crescere, ma erano molto severi. I Jackson non piangono. Qualche volta sono andata a casa di qualche amico, quando mia madre me lo permetteva. Vedevo il rapporto dei miei amici con i loro padri. Li chiamavano papà, si sedevano sulle loro ginocchia. Una volta ho provato a chiamarlo papà. Mi disse, no, sono Joseph. Chiamami Joseph. Sono Joseph per te. Se tuo padre te lo dice una volta, non lo chiedi mai più. E qui non si tratta di botte. Janet non parla di violenza fisica, ma di una violenza forse ancora più drammatica, un'affettività dura da sopportare. Invece Michael parla proprio di botte, di bambini terrorizzati. Il suo è un racconto terribile. Mi usava come esempio. Fate come Michael. E lo diceva mentre aveva in mano una cintura. E se sbagliavi un passo ti picchiava. Ma non solo quando ci esercitavamo, anche durante le prove eravamo nervosi, perché se ne stava seduto su una sedia con la cintura in mano. E se non facevi le cose nel modo giusto, ti colpiva. Io me le sono beccate tante volte, ma quello che se ne è prese di più è stato mio fratello Marlon, perché all'inizio faceva fatica e ci provava così tanto. Diceva sempre, fate come Michael, fate come Michael. Gli altri erano molto nervosi e anche io ero molto nervoso. Era cattivissimo. Ma perché devo ricordarmi queste cose? Non erano solo cinghiate. Usava anche i cavi di metallo, qualsiasi cosa gli capitasse a tiro. Oppure ti sbatteva contro il muro con tutta la sua forza. Perdeva il controllo. Mi ricordo mia madre urlare, «Joe, lo ammazzi, fermati che lo ammazzi!» Io ero velocissimo. La maggior parte delle volte non riusciva a prendermi, ma quando mi prendeva, oh mio Dio! Beh, è difficile fare commenti su queste affermazioni, sulla sofferenza che traspare da questo racconto sull'infanzia rubata a Michael Jackson, infanzia che lui per tutta la sua vita poi ha cercato di ricostruire con il giardino, il parco giochi, i cerbiati, i rapporti con gli altri bambini che sono sicuro non erano assolutamente rapporti dettati da pedofilia, ma semplicemente la voglia di riprendersi la sua condizione di bambino che non aveva avuto. E intanto i Jackson 5 continuano con la loro carriera, con i loro guadagni milionari e come spesso accade si creano i primi contrasti contrattuali con la Motown. Nel 75 Joe decide di lasciare la casa di Detroit, firma un contratto con la Epic Records di New York e dato che la Motown aveva registrato il marchio Jackson 5 devono anche cambiare nome, diventano The Jacksons. Cambia anche la formazione perché Jermaine rimane alla Motown perché ha sposato la figlia di Berry Gordy, prosegue nella sua carriera da solista che peraltro si incrocerà con la mia perché ci fu un periodo in cui facemmo la stessa promozione, insomma lui era semplicemente il fratello di Michael Jackson, questa era la verità. Comunque intanto arriva Randy, il più piccolo dei maschi, che ha 14 anni. Con la Epic i Jackson danno vita ad altri tantissimi successi, tra i quali Destiny, album pubblicato nel 78 che diventerà il loro disco più venduto di sempre, 6 milioni di copie, 2 singoli di enorme successo, Shake Your Body e Blame It on the Boogie. E all'inizio degli anni 80 Michael intraprende la sua straordinaria carriera da solista. I Jackson continuano le loro performance e vanno avanti a fasi alterne. Lo stesso Michael tornerà diverse volte a cantare con loro. Ci uniranno anche le sorelle Latoya e Janet E intanto Joe Jackson fonda la sua etichetta musicale, la Ivory Tower International Record, e continua a seguire le carriere dei suoi figli più piccoli, Randy e soprattutto Janet. Agli inizi degli anni 90 arrivano i racconti dei figli ormai grandi sulla loro infanzia e sul comportamento violento del padre. Tutto diventa di dominio pubblico, i media si scatenano contro Joseph Jackson, partecipa a diversi programmi televisivi lui per difendersi, e lo abbiamo sentito, a sostenerlo è anche la moglie Catherine, moglie peraltro messa subito in disparte, tradita molte volte sul punto di lasciarlo. Joe ha avuto perfino una figlia da un'altra donna, ma alla fine la moglie è sempre rimasta con lui e lo difende così. Non penso che fosse troppo severo. A quel tempo tutti educavano i loro figli così. Se facevi qualcosa che non andava bene, che era terribilmente sbagliato, venivi punito, le prendevi. Oggi non puoi più farlo. Michael guarda a quel periodo e dice che è stato abusato. Beh, lo chiamano abuso, ma se non ci fossero state quelle cinghiate, cosa sarebbe il mondo oggi? Sto male, perché so che il mondo è condannato. Lo dice la Bibbia, che il mondo verrà distrutto. Quindi... The Bible tells us the world will be destroyed, so... Insomma, per la signora Catherine il marito ha fatto bene a prendere a cinghiate i figli che a 12, 13, 15 anni vendevano milioni di dischi, li rendevano ricchi, insomma, soprattutto i genitori. Sono opinioni. Michael Jackson, che come sappiamo ahimè muore a 50 anni il 25 giugno del 2009, ha fatto in tempo a dichiarare pubblicamente al programma di Oprah Winfrey di avere perdonato il padre. Qualcuno potrebbe definirlo uno che impone una disciplina ferrea, ma era molto severo, molto duro, faceva paura. Bastava un suo sguardo per terrorizzarti. Avevi paura di lui? Molta. Ero terrorizzato. Certe volte quando arrivava stavo male, vomitavo. Da bambino o da adulto? Entrambi. Entrambi. Ma gli voglio bene e lo perdono. Ma puoi veramente perdonarlo? Lo dico sempre nel mio programma. Puoi davvero perdonare se non sei stato arrabbiato? Se non hai risolto come ti senti veramente? Puoi passare dall'essere abusato a perdonare? Io lo perdono. C'è così tanta spazzatura che è stata scritta su di me ed è tutto falso. Sono tutte bugie. Joseph Jackson è sopravvissuto a suo figlio Michael, oggi ha 88 anni. Nel 2015, mentre era in Brasile, a San Paolo, per festeggiare il suo 87esimo compleanno, è stato colto da un ictus cerebrale, però si è ripreso perfettamente. Di recente ha reso noto il suo ultimo progetto, il Joe Jackson Bootcamp, una serie di audizioni che porteranno a scegliere il miglior rapper non professionista d'America per lanciarlo nel mondo della musica. E incredibile ma vero, lui ha posto una sola clausola ai suoi concorrenti: non usare violenza nei loro testi. Abbiamo sempre raccontato storie controverse perché la vita è una storia controversa, però in questo caso tutto si è ancor più complicato perché la storia di Joe Jackson è la storia di un padre che porta al successo i suoi figli mentre sono giovanissimi, ruba loro l'infanzia e con metodi più che discutibili mantiene la disciplina all'interno di questa band, cioè i Jackson 5. Storie di chi è risalito, di chi ha tentato o di chi è salito sulle spalle di qualcun altro solo per compiere il suo colpo d'ala. Se volete inviare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare i miei microfoni, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, oppure al nostro sito, oppure venite nei miei, nei nostri social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani. We'll be right back.